Io suggerisco a tutti, e molti mi ascoltano, di comperarsi il messalino quotidiano per poter seguire bene tutta la messa, che non è composta solo dalle letture bibliche. La messa è composta anche dalle orazioni, è composta anche dal canto dell'Alleluia, dal salmello di ingresso, dal salmo responsoriale. È veramente una miniera la Santa Messa. A me piace ogni tanto soffermarmi sulla prima orazione e scomporla. Faccio sempre un esempio che è semplicissimo ma è chiaro. Una donna, che è veramente una brava cuoca, se tu le fai assaggiare una torta, lei ti dice subito le componenti. Ma qui c'è dentro un po' di questo, non manca un pizzico di quest'altro. Tu le metti insieme e viene fuori la torta buona. Le orazioni, cari miei, sono fatte alla stessa maniera. Bisognerebbe essere capaci, dalla torta intera, di risalire alle sue componenti, dall'orazione intera di risalire alle frasi che la compongono. Quindi, se avete in mano il messalino, io vi invito a prendere in mano la prima orazione e cominciamo con un verbo preciso e deciso: concedi, o Dio onnipotente. Guardate che il Signore ci permette di avere così tanta confidenza in Lui, quasi da dargli un comando. Concedi, se guardiamo in italiano, è un imperativo. Concedi. Pensate che confidenza ci dà il Signore. Gli diciamo: Signore, tu ci devi concedere. Se saltiamo due righe troviamo questo: serbaci alla scuola delle cose celesti e nella tristezza dei tempi presenti donaci un po' di gioia. Sono due frasi densissime. Conservaci, serbaci alla scuola delle cose celesti. Vedete, cari cristiani, noi lo sappiamo tutti che non siamo eterni. Peccato che non ce lo ricordiamo e arriviamo sempre impreparati alla fine della vita, sempre. Io non dico che uno deve pensare tutti i giorni alla fine della vita, ma qualche volta, no? Allora la messa ci dice di stare alla scuola delle cose celesti. Io vi assicuro che è bello pensare ogni tanto al paradiso. Se uno pensa al paradiso, certo deve prendersi del tempo, no? Può pensare, se i suoi genitori sono già nella vita eterna, può pensare al papà e alla mamma, pregare per loro, ma anche chiedere che loro preghino per te. Pensare alle cose celesti, uno può pensare alla Madonna, perché la Madonna sta in cielo, ogni tanto appare sulla terra in qualche apparizione, ma la Madonna sta in cielo. Pensare a tutti i santi, soprattutto ai santi che tu ami, pensare al tuo angelo custode, pensare il paradiso, ditemi la verità, che non ci si pensa mai, perché si pensa sempre che per andare in paradiso bisogna prima morire, è vero, ma se uno pensasse al paradiso, anche la morte gli sembrerebbe meno amara. Mi dite che sto facendo fantascienza? No, amici, io sto dicendo la verità. Siete voi che siete fuori dal mondo. Perché se non pensate mai alla vita eterna, se non pensate mai alle cose celesti, siete fuori dal mondo. E poi dice un'altra frase: e nella tristezza dei tempi presenti donaci un po' di gioia. Io, mentre meditavo da solo queste parole, perché per predicarle a voi prima me le gusto io, prima me le mangio io e poi vi do il mio latte che genero mangiando questo cibo. E dicevo, io grazie a Dio non so cos'è la tristezza. È un regalo di Dio questo, eh? È un regalo di Dio. In compenso incontro un sacco di gente triste, un sacco di gente delusa, amareggiata, triste. E allora io prego per loro. E nella tristezza dei tempi presenti, donaci un po' di gioia. Capite, amici, anche perché il prete non si sposa. Il prete non si sposa perché, non avendo famiglia, non ha paura di pensare alle cose del cielo. Chi lascia su qui? Nessuno. E non avendo famiglia, non pensa agli affari suoi, pensa agli affari vostri, alle vostre tristezze, alle vostre preghiere. Lei preghi, mi raccomando. Quante richieste mi arrivano anche su WhatsApp di uno che va all'ospedale, dell'altro che deve avere un'operazione, di un bambino appena nato che ha dei problemi dopo la nascita, così. E allora anche in questa Santa Messa io dico a Gesù: Gesù, conserva me nella gioia delle cose celesti e concedi alla mia gente, quella che tu mi mandi, un po' di gioia grazie anche a questa messa che celebro per loro.